Sembra che l'obiettivo principale nella vita della maggioranza delle persone sia quello di voler avere ragione. Parlano per avere ragione, discutono per aver ragione, litigano per avere ragione. Sembra che senza la consapevolezza di aver ragione la loro esistenza non abbia senso. Quando penso a queste persone, ho in mente il cane del mio vicino. Quando passo accanto alla cancellata che delinea la proprietà del suo padrone, la quale si sente in sacrosanto diritto di difendere, egli abbaia e ringhia, come se volesse sbranarti, ma quando lo trovo fuori scodinzola facendomi le feste. Così sono queste persone. Quando si tratta di affrontare argomenti per i quali credono di avere tutto il diritto di possedere le verità, ululano come cani, Salmo 59.6, fino a quando chi aveva la sana e giusta intenzione di entrare nel recinto dei loro ragionamenti per offrire verità consistenti, è costretto ad andarsene. È vero che la parola dell'uomo ha la sua forza, perché con essa ho potuto esprimere meravigliosi sentimenti e grandissime verità, ma è altresì vero che essa è anche fragile, debole, e facilmente manipolabile e falsificabile, perché ha potere diverso secondo l'intenzione di chi la pronuncia. Con la parola possiamo informare, ma anche deformare, possiamo comunicare, ma anche dissimulare. Possiamo dire la verità, ma spesse volte la manipoliamo e la nascondiamo pur di avere ragione. Per la maggioranza delle persone sembra che avere ragione sia più importante dei valori incommensurabili della vita, come l'amicizia, l'amore, l'armonia. Per queste persone le parole vengono usate come un'arma contro chi osa avvicinarsi al recinto della loro ragione e forti del loro dovere di difendere ad ogni costo la proprietà del loro ragionamento sono insensibili ad ogni richiamo di verità. Ciò che mi stupisce in questo atteggiamento non è tanto il voler a tutti i costi voler avere ragione, meno anche perché è umano cercare di avere una certa sicurezza in ciò che si pensa, meno ma il non rendersi conto che avere ragione non è automaticamente sinonimo di essere dalla parte della verità. E lampante che le persone le quali a tutti i costi vogliono avere ragione ritengano veritiere le motivazioni addotte per arrivare al loro scopo, diversamente non vedo il motivo di tanta insistenza per voler che gli altri diano loro ragione. Se avere ragione e dire una verità fossero sinonimi, nulla da replicare, ma poiché rare volte succede questo, l'atteggiamento più saggio e più comune da tenere nelle conversazioni dovrebbe essere quello di lasciare entrare nel proprio recinto di sicurezza, senza abbaiare, l'opinione altrui, dato che io posso sì avere ragione, ma può anche essere che contemporaneamente l'altro non sia nel torto. Se avere ragione e verità non sono sempre sinonimi, per un sano modo di pensare e di parlare, dovremmo togliere dal nostro vocabolo l'espressione «hai ragione». Dovremmo toglierlo per un sano modo di pensare, perché una simile affermazione porta le persone a pensare che la verità sia una realtà intrinseca nell'uomo. L'uomo non possiede nessuna verità, dato che quando entra in questo mondo, il suo scopo principale è quello di conoscere e riconoscere le realtà che sono attorno a lui. L'uomo non ha inventato la gravità terrestre, non aveva questa nozione dentro di sé, ma ha semplicemente riconosciuta una realtà attorno a lui, come del resto non ha inventato il corpo umano. Ha semplicemente esplorato, o sta esplorando, il meraviglioso corpo che possiede. Il massimo che possa fare l'uomo nei confronti della verità è riconoscerla e accettarla. La verità è oggettiva, è ciò che corrisponde alla realtà, è ciò che è in realtà. Mentre avere ragione è opinabile. La verità è ciò che si sa, o si dice, e che corrisponde a ciò che è vero. Proprio per questo, dire a qualcuno che ha ragione significa mettere enfasi sulla sua persona, sulle sue capacità, e questo porta a ritenere che l'uomo possa essere in grado di creare la verità, mentre al massimo esso può solo riconoscere ciò che è vero e creare delle credenze. Credenze che una volta create sono vere fino a quando il nostro pensiero su di esse sia conforme al modo in cui esse sono. Come disse un filosofo, il mondo contiene fatti che sono ciò che sono indipendentemente da ciò che noi scegliamo di pensare riguardo ad essi, e che ci sono opinioni che hanno riferimento ai fatti e che in base a riferimento ai fatti sono o vere o false. Russell LK 182. Ne consegue che la falsità è ciò che non corrisponde alla realtà. Stando così le cose, com'è possibile dire a qualcuno che ha ragione, come se quello che sta dicendo fosse il risultato di una sua capacità intrinseca di essere nel vero e di dire ciò che è giusto? Al massimo possiamo dire ad una persona: stai dicendo il vero o stai dicendo la verità, perché con questa testimonianza mettiamo in enfasi il fatto che la persona ha dei pensieri o rilascia affermazioni che corrispondono alla realtà oggettiva. Non è la persona a aver ragione, perché con i suoi ragionamenti non può creare falsa o vera nessuna cosa, ma è il suo giudizio a trovarsi in accordo con la realtà affermata dal giudizio. Queste riflessioni non scaturiscono da chi desidera fare solo discorsi ampollosi, ma sono necessari per avere il giusto atteggiamento nella vita e per porre fede nel messaggio del Vangelo. L'atteggiamento più comune a chi ascolta il messaggio del Vangelo, il quale annuncia la morte di Cristo per il perdono totale e definitivo dei peccati per chiunque crede, e la sua resurrezione al terzo giorno dai morti per salire in cielo. Ora, è impossibile che affermazioni contraddittorie siano vere allo stesso tempo. Se una contraddizione è vera, l'altra è necessariamente falsa. Non possono essere vere ambedue. Se io affermo che Cristo Gesù è risorto e uno lo nega, non si tratta di sapere chi ha ragione o torto, perché tanto la realtà non cambia. Ma piuttosto occorre sapere chi di noi due sta dicendo la verità. Questo aspetto è molto importante. Fin da piccolo il mio atteggiamento verso la vita è stato quello di conoscere il vero, sia sull'universo sia su Dio. E questo perché a me poco importava e importa tuttora avere ragione. Ho capito fin da piccolo che si può avere ragione ed essere nel torto solo perché si ha qualche ragione logica in più da presentare, e per questo ho sempre rifuggito il piacere di sentirmi dire che ho ragione, ma mi sono impegnato a comprendere se le cose corrispondevano alla realtà. Non è avere ragione che mi aiuta a vivere meglio, ma la verità. In questo contesto Gesù disse ai giudei che avevano creduto in lui una parola veramente unica e indispensabile: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8.3133. Dunque, secondo Gesù è la verità che libera l'uomo e non l'avere ragione. Si può avere ragione, perché si è in grado con il ragionamento di far tacere l'altro, ma è una vittoria che non produce nessun effetto positivo in chi la ottiene. E la verità è solo la verità che produce del benessere all'uomo. Se due medici diagnosticano due diverse malattie in un paziente, produrrà del benessere al malato, non il medico che avrà ragione, ma chi avrà fatto una diagnosi giusta. Non è perché ha ragione il medico che il paziente può essere curato nel modo efficace, ma perché la diagnosi corrisponde alla verità. Nessuna ragione può produrre un beneficio all'uomo, ma solo il riconoscimento della verità può farlo. Se è la verità che libera, guarisce, produce il benessere, allora l'obiettivo dell'uomo deve essere quello non di avere ragione, ma di cercare la verità delle cose. Detto questo, se chi ascolta il Vangelo vuole essere un uomo libero e vivere nel benessere in questa vita, deve avere l'obiettivo di cercare e trovare la verità sopra ad ogni cosa. Si sa che aver ragione è una situazione piacevole e appagante perché ci si sente importanti e ammirati, ma sono sentimenti e situazioni che svaniscono come nuvole nella realtà della vita. Avere ragione e scontrarsi del continuo nella realtà della vita non serve proprio a nulla, ed è da insensati. Se sostengo che fuori fa caldo, mentre la temperatura è sotto zero, uscendo soffrirò del freddo e mi prenderò qualche malanno se non intervengo coprendomi. A nulla servono le mie argomentazioni contro la realtà delle cose. Così, se di fronte al messaggio del Vangelo si vuole negare l'esistenza, la morte e la resurrezione di Cristo, uno è libero di farlo con più o meno argomentazioni per lui valide. Ma alla fine il suo aver ragione non produce nessun effetto liberatorio, perché Gesù Cristo è ugualmente morto e risorto, e lui rimane nell'ignoranza e nella schiavitù. Ma il vero dramma per chi non pone fede in Cristo quale Salvatore e padrone della sua vita e il non appropriarsi delle grandi liberazioni che offre Dio tramite Gesù Cristo. Se Gesù ha parlato di libertà è perché l'uomo è schiavo, e mentre noi per schiavitù pensiamo subito all'essere sottomessi contro la nostra libertà a qualche altra persona, Gesù si riferiva al peccato. Ecco cosa disse in merito. In verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8.3436. Non occorrono molte parole per rendersi conto che in definitiva l'uomo è schiavo non tanto di un altro uomo o delle circostanze della vita, ma delle inclinazioni negative che agiscono nella sua vita. Un uomo senza Cristo può avere denaro, benessere e potere, ma non è in grado di vincere atteggiamenti come l'ira o certe debolezze del suo carattere. Secondo la parola di Dio, il peccato è tutto ciò che è contrario al volere di Dio, e tutto ciò che è contrario al volere di Dio non produce nessuna liberazione e nessun benessere all'uomo. Gesù, offrendo la libertà all'uomo, ha offerto il più grande dono che ha perso l'umanità nella persona di Adamo, e la possibilità di ripristinare un'esistenza che è in armonia con la realtà. A nulla serve pensare di avere ragione se poi in pratica vi è un conflitto con la realtà, mentre è saggio uscire dalla propria presunta verità e accettare e riconoscere la realtà per quella che è. E la realtà ultima si chiama Gesù Cristo. Solo Lui ha ragione, perché in Lui ragione e verità si incontrano e si fondono. Marzo 2006. Ellero,